che resta. Restano lo salgenti, che cela un'urna breve, un freddo sasso degli anni tuoi già spenti. Dimmi che ti rimane, o fu l'inganni,